Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Oggi parliamo del boom di vendite per il porta a porta, un settore considerato obsoleto che invece scommette sul futuro. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione parliamo poi di una nuova sfida ai giganti del caffè e per il focus sui trend di acquisti partecipativi, quando l'unione fa la forza e fa tendenza. Prima ci sono però le notizie e curiosità di questa settimana. Dilaga in Francia la moda dei maxi aperitivi in piazza. Un vero e proprio fenomeno di massa che preoccupa le autorità locali, intervenute per annullarli, in alcuni casi. Gli aperitivi urbani organizzati via Facebook attirano migliaia di persone, anche fino a 10.000. Più sicurezza per i consumatori europei grazie a una sorveglianza più efficace. Cresce il numero di prodotti pericolosi notificati tramite il sistema di allarme rapido RAPEX. Quasi 2.000 le notifiche nel 2009. In crescita del 7% circa sul 2008. Il 60% delle segnalazioni riguarda la Cina. In cima alla classifica ci sono i giocattoli, seguiti da indumenti e veicoli a motore. Oltre il Farmers Market, sono i mercati della terra, mercati contadini organizzati da Slow Food, che oltre a lasciare spazio ai produttori locali virtuosi, riabilitano il mercato come luogo di aggregazione. La rete è mondiale. È in arrivo dagli Stati Uniti l'accessorio dell'estate, Backtacular, adesivo decorato e ipoallergenico, da posizionare sul fondoschiena in caso di jeans a vita bassa, per risolvere l'indecoroso inconveniente dal lato B ad ogni movimento incauto. È stato ritirato lo spot di telefonini della Microsoft accusato di incitazione al sexting, la contestata pratica dello scambio di foto OSE via cellulare, diffusa tra gli adolescenti. In una sequenza del video, un ragazzo, durante una festa, si infilava il telefonino sotto la maglietta, scattava e inviava a un'amica. Le proteste hanno convinto l'azienda di Redmond a fare dietro front, sostituendo la scena incriminata. Prendete un internet caffè e metteteci le macchine da cucire al posto dei computer. Otterrete il Café Couture, appena aperto a Parigi nel quartiere di tendenza ai bordi del canale Saint-Martin. 6 euro l'ora il costo di noleggio delle macchine, per riciclare e reinventare gli abiti, tra una tazza di tè e una torta. La borsa della spesa. Io le ho sporcato il pavimento. Ma va! Io le garantisco che anche se dovesse rimanere una sola briciola di pane, oppure una sola briciola di biscotto, una sola briciola di marmellata, io me la mangerò tutta con la mia bocca. Se la mangia! Me la mangio io perché se la ingerisce! So, certo, perché io so quello. Si mangia quello che ho buonato per te! Ma sicuramente. Va bene, buon appetito! Si sieda! Ma cosa sta facendo? No, si sdrai, si inginocchi! Cosa fa? Ma no, no, mangi, mangi! Mangi! Così impara! Eh sì, dura la vita del venditore porta a porta, si sa, ma se pensate che sia un'occupazione in estinzione, vi sbagliate. La crisi, lo andiamo ripetendo da mesi, ha cambiato molto le abitudini di consumo, ha fatto emergere pratiche virtuose come il consumo responsabile, il riciclo, il riuso, ma ha anche visto consolidarsi settori inaspettati. Fra questi c'è sicuramente la vendita diretta a domicilio, il porta a porta, appunto, che anche quest'anno ha messo il segno più davanti a fatturato e addetti. Segno più anche nel 2009 per la vendita diretta. Lo rivelano i dati delle imprese associate a Vedisco, che registrano fatturati in crescita di oltre il 4% rispetto al 2008. Il giro d'affari supera il 1.400 milioni di euro. In testa alle vendite si confermano i beni durevoli casa, con una quota di mercato pari al 46% del totale, seguiti da alimentari, cosmetici e accessori moda. Notizie positive anche sul fronte occupazionale. Nel 2009 gli incaricati alla vendita sono aumentati di oltre il 7%, superando quota 255.000. A A testimoniare il momento favorevole ci sono anche campagne pubblicitarie importanti come quella firmata Avon, protagonista l'attrice americana super pagata Reese Witherspoon. Uno spot patinato molto simile a quelli delle grandi case cosmetiche. Dato per moribondo con l'avvento dell'e-commerce, il porta a porta insomma si sta prendendo una bella rivincita. Per molti il web avrebbe dovuto fagocitarci, invece potremmo essere noi a sfruttarlo, ci dice il presidente di Avedisco, Associazione Vendite Dirette, Luca Pozzoli. Consideriamo che internet sicuramente si è evoluto come una rete di relazioni e se parliamo proprio di relazioni umane, beh, noi della vendita diretta siamo certamente degli specialisti, probabilmente abbiamo inventato noi i social network prima di Facebook, proprio perché c'è un rapporto diretto tra i nostri incaricati e coloro che non sono più solamente clienti, ma diventano poi in realtà conoscenti e in qualche modo amici che sviluppano proprio una relazione di fiducia con l'incaricato e quindi acquistano con consapevolezza. Proprio il rapporto individuale, quello che caratterizza il nostro settore, per un acquisto consapevole che viene vissuto molto spesso più come un investimento, sicuramente non è un acquisto d'impulso, ecco, diciamo. Ma quali sono i segreti del mestiere? Meglio l'insistenza o la discrezione? Lo abbiamo chiesto ad un venditore da record, Davide Simeoni, miglior venditore della Vorwerk Folletto, oltre 1600 aspirapolveri, pensate, venduti in un anno. Ma segreti, diciamo, non ce ne sono. Applicarsi con simpatia, far vedere al cliente che insomma sei disponibile, partire presto la mattina e dedicarsi ai clienti, alle dimostrazioni, a fargli provare il prodotto. Cioè non c'è un bravo venditore che sia discreto e non sia insistente, e non c'è un bravo venditore, ripeto, che sia insistente senza avere quell'umiltà di non essere troppo invadente. Sono vari fattori, ecco, secondo me, l'uno e l'altro aiuta. Gli esperti parlano di social home shopping o marketing sociale ad indicare l'ingrediente di successo di questo tipo di vendita, che è la riscoperta della dimensione intima, domestica, sociale, appunto, dei consumi. Una formula copiata recentemente anche dalla Microsoft, che ha organizzato veri e propri party casalinghe per il lancio dei propri prodotti e adottata in Spagna da Tupper Sex, linea di sex toys. Ancora Pozzoli. Ma guarda, io sono anche amministratore delegato di Tupperware, per cui c'è anche questo aspetto per cui è stato preso a prestito non in maniera proprio, diciamo, adeguata il nostro nome ad indicare proprio il metodo dei party. No, la notizia è che comunque sono già sbarcati in Italia, a quanto mi dicono un buon successo in Spagna, per cui potrebbe essere, ecco, anche un canale di sviluppo anche da noi. Cambiamo argomento con il direttore di Markup Luigi Rubinelli, parliamo della nuova scommessa per le private label, scommessa che inizia in un settore da titani, il caffè. Le private label, i prodotti con il nome dei supermercati e degli ipermercati, continuano a macinare vendite un po' in tutta Europa e soprattutto in Italia. Il motivo è abbastanza semplice: a seconda delle categorie merceologiche, la private label costa dal 20 al 40% in meno dell'omologo prodotto di marca nazionale. Negli ultimissimi tempi, le grandi catene di super e ipermercati hanno affinato le strategie di marketing e hanno inventato nuove categorie di prodotto come il benessere o i prodotti per bambini e hanno effettivamente innovato. Segnaliamo su tutti il caso del cioccolato. Ma nelle ultime settimane sta avvenendo dell'altro. In Francia, ad esempio, due produttori con marchi di fantasia stanno addirittura sfidando Nespresso, il brand di proprietà di Nestlé, che è diventato negli anni un caso di marketing, elevando, come ha fatto anche Illy, il caffè da commodity in un prodotto di altissimo livello. Il primo produttore, addirittura, è stato presidente di Nespresso e ha fondato successivamente Ethical Coffee & Co. Il secondo produttore è la multinazionale americana Sara Lee. Il prezzo di Ethical sarà del 20% inferiore a quello di Sara Lee, che già a sua volta propone uno sconto del 10%. Stesso caffè, stessa capsula. In realtà le capsule di Nespresso sono di alluminio, quelle dei nuovi venuti sono biodegradabili. Il problema però è che Ethical Coffee produrrà con il marchio della catena di supermercati Casino, che delle private label hanno fatto da sempre la propria Bibbia e i propri utili. Ethical Coffee è una società di diritto svizzero e ha scelto per iniziare la Francia, perché qui, a giudizio dei suoi avvocati, la legislazione è più elastica. Rimane da vedere come gli uffici legali della Nestlé affronteranno le cause che di sicuro intenteranno, ma alcuni brevetti nel frattempo stanno scadendo. Si è aperta in pratica una nuova fase per le private label. Essere e avere. Di nuovo in studio con Essere e Avere, diamo subito il benvenuto a Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF. Buon pomeriggio Patrizia. Grazie, buongiorno a tutti. L'unione fa la forza è l'espressione che abbiamo scelto per indicare la tendenza di oggi, dai gruppi di acquisto ai siti di acquisti collettivi, dalle centrali di acquisto a livello industriale fino al marketing partecipativo, il gruppo è ormai entrato prepotentemente nelle dinamiche legate ai consumi. Complici il web che ha diffuso i concetti di condivisione e partecipazione e complice anche la crisi che ha favorito scelte di consumo più responsabili, consumatori e aziende insomma hanno capito che insieme è meglio. Patrizia. Sì, parlando di acquisti, di consumi è proprio il caso di dire che uniti si ottiene di più, si ottiene sempre uno sconto, in certi casi addirittura più si è e meno si paga. Quindi da un certo punto di vista niente di nuovo, l'unione continua a fare la forza e continua ad esserci il grande potere dei numeri nel mondo dei consumi, però ci sono delle caratteristiche nuove che rendono questo fenomeno dei gruppi di acquisto solidali, dei GAS, ma in generale del raggrupparsi, del mettersi insieme per acquistare, che è un fenomeno già molto significativo e le cui evoluzioni e impatti sul retail, sui luoghi di acquisto, appunto sul mercato, andranno seguite molto attentamente. Dicevo, ci sono delle caratteristiche che vanno analizzate che rendono questo fenomeno sorprendente, perché va molto oltre l'evidente risparmio economico. Da un lato abbiamo la velocità e la facilità con cui, grazie al web, ai social network in particolare e all'essere sempre connessi, numeri consistenti di persone con medesimi obiettivi, che possono essere di consumo ma anche politici, anche di intrattenimento e così via, si raggruppano ed esercitano un'influenza, in certi casi anche su scala globale. Poi, seconda caratteristica, è il fatto che questa nuova gruppalità così istantanea è così potente, è il segno di fatto di una solidarietà più diffusa, di una domanda nuova e continua di eticità nel mercato, riconducibile anche a una corrente valoriale molto più ampia, tanto che si può parlare di sostenibilità etica da affiancare a quella più specificamente ecologica, di cui si parla molto di più. Quindi abbiamo la rete come acceleratore di questa esigenza di convenienza ormai diffusa, naturalmente legata anche alla crisi economica, ma che fa leva su un nuovo primato anche della relazione e della solidarietà tra le persone. Sempre di più online si trovano i coupon di gruppo, questi sconti applicabili a ristoranti, a eventi sportivi, a trattamenti estetici nelle spa, ma anche agli abbonamenti a campi di golf. Quindi tutte quelle attività che appunto avevano risentito anche della recessione e che, se acquistate in gruppo, che tra l'altro non significa, va sottolineato, poi fruirne in gruppo, fare le cose insieme, ridiventano accessibili. Dunque il vecchio coupon combinato con il tam-tam della rete acquista un ruolo importantissimo come anello di congiunzione proprio tra aziende e consumatori, dove il consumatore negozialmente è più influente, è più potente. Per favorire e potenziare l'acquisto collettivo tra persone organizzate che si conoscono, appunto come nel caso dei GAS, ma anche tra sconosciuti, sono nati molti aggregatori sul web, come citiamo tra i più famosi Groupon, attivo soprattutto a Londra, o Twangon. Il sottotitolo, tra l'altro, a cui credo ti sia ispirata per il titolo della puntata, è appunto L'unione fa la forza. Come funziona? Ci si iscrive al sito che ogni giorno offre un affare nelle diverse città in cui il servizio è attivo, e questo affare può riguardare settori molto diversi, dal cibo al vino, ai viaggi, la musica, cinema, eventi, shopping, di prodotti di vario genere. E questo affare che viene proposto ogni giorno è vincolato da un numero minimo di acquirenti entro le 24 ore. Quindi la formula è semplicissima e molto efficace: più acquirenti, minore sarà il costo dei prodotti offerti. L'affare si può anche regalare a qualcuno via email, questo aiuta nel raggiungere la soglia numerica di acquirenti richiesta, ed è chiaro che questo fa scattare il passaparola tra amici per non perdere l'affare. Dunque, nel caso di automobili, pensiamo, di elettronica di consumo, di arredo casa, gli sconti diventano significativamente allettanti. Allora, di nuovo si può parlare di una logica win-win, dove tutti vincono perché ci sono solo vantaggi sia per il consumatore che per l'azienda. Per il consumatore c'è da un lato maggiore autotutela, e anche in questo caso l'unione fa la forza, ma anche maggiore opportunità di accesso a prodotti appunto dell'alto di gamma o di nicchia altrimenti nemmeno considerati. Per le aziende, i gruppi di acquisto ma anche i raggruppamenti casuali online cominciano ad essere parte delle strategie di marketing e multicanale di vendita. È un modo facile per alleggerire il magazzino, per promuovere nuovi prodotti, per intercettare nuovi target senza impegno né rischio, poiché se non ci sono le condizioni del numero minimo l'affare sfuma sia per una parte che per l'altra. Ma questo è un dato interessante: il consumatore, sempre più prosumer, diventa parte così attiva da diventare lui stesso forza vendita. Infatti, se vuole avere quel prodotto a quel prezzo deve convincere altri acquirenti a fare quell'affare quel giorno, altrimenti quel prezzo non si potrà ottenere. Quindi è il consumatore stesso che vende per l'azienda. Fondamentale, dicevamo, l'esperienza dei gruppi d'acquisto. In Italia ce ne sono circa 600, sono quelli censiti dalla rete di collegamento, Rete Gas appunto. Ecco che cosa scrive al proposito Giampaolo Fabris nel suo ultimo libro La società post crescita, consumi e stili di vita, un testo illuminante per quella che il sociologo definisce una nuova antropologia del consumo. Il forte sviluppo dei gas, i gruppi di acquisto solidale, è certamente un'ulteriore manifestazione del rilievo di componenti etico-ambientali nella qualità di un prodotto e nell'influenza che queste esercitano su comportamenti effettivi di acquisto. I gas sorgono spontaneamente sul territorio e sono rivolti a un acquisto consortile di prodotti locali o a filiera corta, biologici, che riducano l'inquinamento e lo spreco energetico dovuto ai trasporti, rivolgendosi a piccoli produttori che, oltre a presentare un'offerta che abbia queste caratteristiche, garantiscano il rispetto dei diritti dei lavoratori e degli animali. Per i prodotti che vengono dall'estero, l'opzione prevalente è per quelli del commercio equo. Con i gas, l'orientamento a eticizzare l'acquisto va oltre l'assunzione in prima persona di responsabilità sociali per creare le premesse di un movimento politico. Patrizia, etica e commercio, etica e business, etica e guadagno insieme è una rivoluzione? Sì, lo dicono già in molti, abbiamo sentito anche il professor Fabris. In termini più ampi, anche di lifestyle, questa solidarietà, questa nuova sensibilità etica si sta molto diffondendo. Tra l'altro, alcuni, proprio per collegare l'etica al business, parlano di generosità strategica o opportunistica. È anche un po' il tema che tratta Chris Anderson nell'ultima edizione di La Coda Lunga, che ha aggiornato con un nuovo capitolo intitolato La coda lunga del marketing, dove appunto parla di questo tema della generosità tattica, e questo è proprio uno dei nuovi e più interessanti tratti socioculturali contemporanei. È un modo per stare nella microfisica del quotidiano, anche per risolvere problemi ordinari, unirsi ad altri. Per fare un esempio di cronaca recente, moltissimi passeggeri dei voli aerei cancellati per la nube di cenere del vulcano islandese che ha bloccato appunto i trasporti aerei europei, si sono organizzati online con gruppi di viaggio in automobile, pulmini, pullman, eccetera. Si sono costituiti sia il gruppo svedese Skijust per l'Europa e quello italiano Posto in Auto solo per l'Italia, hanno aperto una pagina Facebook e gestito un servizio di car sharing, diciamo dal basso, un fai da te, che ha funzionato benissimo, incrociando i post di chi segnalava la tratta che stava per fare con i post di chi chiedeva un passaggio per quella destinazione. Oltre quindi le esperienze di consumo critico in senso stretto, che hanno anche una valenza politica, appunto come già detto, le modalità gruppali stanno veramente cambiando le nostre abitudini, anche i modelli di consumo, e questo anche nel quotidiano. Per esempio crazymenu.com è una variazione interessante sul tema gruppi d'acquisto per la pausa pranzo di impiegati e professionisti. In molte città americane ed europee sono le ordinazioni di gruppo: uno sceglie un ristorante, un menù e la zona sul sito, lo propone a un gruppo di colleghi, al limite anche sconosciuti, che votano i piatti, customizzabili tra l'altro, che insieme vengono comunicati, ordinati con qualsiasi canale, dal telefono al vecchio fax, alla mail, all'instant messaging, insomma al ristorante che poi si prepara per la fornitura. Il gruppo gruppo aiuta anche nella ricerca di amici e partner. Ci sono infatti siti di dating, di appuntamenti online, come Team Dating, appunto la versione gruppale di Match.com. Dagli appuntamenti uno a uno passiamo dagli appuntamenti gruppo a gruppo o gruppo a uno. Quindi, per dirlo con una formula, è appunto il many to one, quindi molti consumatori, molti amici, molti cittadini che si rivolgono a un unico prodotto, unico brand, servizio, ma anche istituzione in gruppo, con un obiettivo che a questo punto diventa più perseguibile. Quindi è un po' il contrario del one to many che abbiamo vissuto finora, chi produce che si rivolge a tutti i potenziali acquirenti senza distinzione. Cosa c'è di nuovo a... Arrivano dalla rete oggi le novità su questa tendenza, ce ne riferisce come sempre la nostra Urban Watcher di Meme, Alessia Zampano, bentornata. Grazie, buon pomeriggio. In questo panorama l'iniziativa di due studenti del Politecnico di Milano rischia di innescare una piccola rivoluzione negli acquisti online. Lo scorso febbraio infatti hanno presentato ThinkFu, scritto con la Y, un widget gratuito. Faccio una breve parentesi, i widget sono quelle microapplicazioni che integrate in un qualunque sito web consentono l'accesso a contenuti digitali. Un widget gratuito, dicevo, che può essere inglobato in qualunque sito di e-commerce per permettere alle persone in cerca di un affare di allearsi per ottenere uno sconto. Come funziona? In primis il venditore, una volta installato il widget nel sito, stabilisce il rapporto qualità-prezzo per ogni singolo prodotto. Da parte loro gli utenti possono aderire a un gruppo di acquisto facendo una sorta di prenotazione attraverso un micro pagamento simbolico di un euro circa. In questo modo verranno tenuti al corrente via mail o sms dell'andamento del prezzo, che si abbatterà quanto più aumenteranno le prenotazioni. Alla scadenza stabilita tutti gli iscritti pagheranno l'ultimo prezzo raggiunto. Questo meccanismo non prevede alcun tipo di intermediazione ed è qui che sta l'innovazione, ma solo vantaggi sia per il venditore, a cui va tutto il ricavato. Per inciso, ThinkFu si finanzia grazie ai micropagamenti iniziali, sia per il compratore che avrà così avuto la possibilità di risparmiare. Grazie Alessia. Patrizia, quello che emerge da tutti i casi che abbiamo citato, anche da quest'ultimo, è un ruolo sempre più da protagonista per il consumatore che, per citare ancora Fabris, diventa consumautore, consumatore. Assolutamente. Come consumatori, proprio perché ci si mette insieme e ci si raggruppa, avremo sempre più potere di decidere, di incidere sui modelli economici futuri. E si può prevedere appunto che le associazioni e i gruppi, anche estemporanei, di consumatori, se riusciranno ad affiancare al ruolo di autotutela e di risparmio economico, anche ruoli propositivi sul piano organizzativo, istituzionale, presentando alternative di comportamenti e di modelli di consumo, possono diventare molto influenti e forse un giorno, appunto come dice Fabri, sostituire anche altri soggetti sociali, per esempio anche a livello politico. Da quello che racconta Alessia, per stare un po' più nel micro, se nei prossimi anni si diffonderà davvero questa opzione gruppale di acquisto online, cioè come singolo acquirente ogni volta che online vedo il widget del gruppo di acquisto, se potrò allearmi, beh, questo sarà veramente un nuovo tipo di potere che non deriva più solo dai soldi disponibili che ho, ma è un potere negoziale a tutti gli effetti. Essere avere @radio24.it, scriveteci le vostre idee, i vostri suggerimenti. Ci risentiamo domenica prossima, come sempre, dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.